Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Ciao Deborah e buongiorno. Buongiorno ai nostri ascoltatori. Eccoci qua. Allora, sai che cosa stavo pensando? Dimmi. Ci serve un po' per introdurre la puntata di oggi. Che ci sono dei modi di dire che io alla fine non ho mai capito. Sì. Ad esempio, uno alla fine delle favole e vissero felici e contenti. Okay. Lo dice. Chi lo dice? Non si può dire, no, esatto. Perché la favola finisce lì. Culiamoci in questa illusione che principi azzurri. Ecco. Noi oggi parliamo un po' anche di principi azzurri. Sì, esatto. In fondo. Che qualche volta inciampano in qualche disavventura. È così, sono maschi. Esatto. E a proposito si dice auguri a figli maschi. Chissà perché è sempre stato considerato beneaugurante, insomma, e l'avere il figlio maschio. E non figli femmine. Esatto. Vabbè, sdoganiamo noi adesso, inventiamoci questo proverbio e lanciamolo. Va. Auguri a figlie femmine, ma noi oggi parliamo di maschio e di maschi e quindi accogliamo questo invito e oggi dedichiamo l'appuntamento di Salute Uomo ai genitori che stanno crescendo figli maschi. È già con noi Andrea Salogna, urologo andrologo presso il Dipartimento di Urologia dell'Università Vita Salute, ma direttore scientifico di Salute Uomo e poi amico di Cuore Denari. Come ti dobbiamo presentare, Andrea? Amico, mi piace molto. Sdoganatore di nuovi concetti. Ne abbiamo sdoganati talmente tanti in queste puntate che questa cosa delle auguri figli femmini mi sembra veramente molto poco rispetto al resto. Vabbè, ma ci arriveremo. Ci raggiungerà anche un grande campione per raccontarci la vittoria della sua vita. Il ministro Lorenzin, ne abbiamo parlato ieri, ha promosso l'allenatore alleato di salute e ve lo ricordate, no? Allora, tra l'altro il titolo della campagna di prevenzione che vuole promuovere corretti stili di vita fra gli adulti di domani. Allora noi, per sensibilizzare alla prevenzione, facciamo scendere in campo un campione giovane, bravissimo, bello, anche bello, e del Sassuolo. Guarda quante esse. Senti. Sono Francesco Acerbi, difensore di Sassuolo. Buona giornata a tutti voi. Ci tenevo a dare il mio piccolo contributo dicendovi che dal tumore del testicolo si può guarire. Se diagnosticato in tempo, si torna alla vita normale. Quindi fate prevenzione. Ecco, fate prevenzione, parleremo anche di tumore al testicolo, parleremo di prevenzione, parleremo di come si può guarire da questo nemico della salute maschile. Ringraziamo quindi Francesco, perché fa con questa sua opera di comunicazione un lavoro egregio e a mio avviso estremamente importante. Lo si potesse fare a tutto tondo nelle scuole, nelle università, nelle pubbliche piazze sarebbe ancora più importante, ma l'attività di un calciatore come Francesco, che è bravo nel suo lavoro ed è molto bravo a comunicarlo, trovo che sia di grande importanza. Allora, ci raggiungerà, parleremo naturalmente di adolescenti, quindi se avete dei figli adolescenti restate con noi, iniziate a prenotare i vostri interventi, ma dato che la prevenzione inizia in erba ci occuperemo anche dei più piccoli. Allora saluto la dottoressa Arianna Lesma, che è responsabile dell'urologia pediatrica del San Raffaele. Buongiorno a lei. Che è pronta a darci risposte e consigli per i genitori all'ascolto, dalla pipì a letto, all'igiene del pisellino, passando per quei segnali che un genitore deve conoscere bene per saper riconoscere nel proprio figlio. Allora diventiamo tutti allenatori di salute. Chiamateci, scriveteci, raccontateci le vostre esperienze. Per completare il sommario di Salute Uomo vi anticipo che commenteremo insieme ad Andrea Salogna l'intervento di trapianto di pene, un intervento di cui abbiamo parlato in una nostra rassegna stampa, un intervento, no? Su cui è facile fare delle battute. Sì, facile ironia, esatto. Scusate il gioco di parole, facile ironia ma grandissima scienza, per cui è estremamente importante parlarne secondo me. E di questo parleremo, insomma vi abbiamo dato qualche spunto per restare con noi, ma altri ve li suggerisce Deborah? Una veloce anticipazione del tema che invece affronteremo nella parte di denari, nella seconda parte appunto di Cuore Denari di oggi, e giovedì lo sapete l'appuntamento fisso con Investire Informati, per cui torniamo sui banchi della nostra scuola di risparmio. A questo proposito navigheremo come sempre in queste acque costantemente agitate dei mercati finanziari per capire come muoverci appunto bene. Oggi il quadro di borsa è contrastato, Milano perde mezzo punto percentuale mentre sono positive le altre piazze europee. I cali più sostenuti, tanto per cambiare, arrivano sui titoli del settore bancario dopo due giorni di forti rialzi. La frenata era attesa, UbiBanca meno 6, Unicredit meno 4, meno 3 punti e mezzo per il Banco Popolare, meno 3 per Pop Emilia Romagna, Pop Milano meno 2 per Mediobanca. In rialzo invece abbiamo Telecom e Tenaris, oggi bene i titoli petroliferi con il petrolio che è tornato a $50 al barile. Mi scappa la pipì, mi scappa la pipì, mi scappa la pipì. a volte scappa di notte, però non si fa in tempo ad avvertire papà, no? Ecco, ci siamo carini, passati tutti. Anche tu ed io da piccole, Debra, abbiamo fatto pipì a letto. Anche se non eravamo maschi, no? Anche le femmine fanno la pipì. Sdoganiamolo. È una pipì d'angelo, eh? Sempre, comunque, sempre. Ce lo ricordiamo, Carmelo, che di femmine ne ha a casa, dice ne non ha, è proprio a così. Comunque ci ricordiamo, perché di quella sensazione spiacevole di sentirci tutti bagnati, poi arrivava la mamma, cambiava le lenzuola, poi la quando cerata, ci andava bene. La cerata non te la ricordi? Sì, c'è ancora ricordo, in circolazione, certo, immagino, nelle culle. Perché sennò arrivava fino al materasso, ti pare? Ecco. E poi quando ci andava bene, magari la mamma era stanca e diceva dai, vieni nel lettone. Ecco, fantastico. Era tutta una strategia. Poi siamo cresciuti, noi siamo passati dall'altra parte del lettone, il lettino tocca farlo a noi quando i nostri bambini ci svegliano nel cuore della notte perché hanno fatto pipì a letto. Allora, dottoressa, è normale, ai genitori all'ascolto che si stanno misurando con questo problema, diciamo che sono in buona compagnia, perché in Italia circa 1 milione di bambini, pensati di età compresa tra i 6 e i 14 anni, soffre di enuresi, così si chiama. Esatto. Ecco, quindi se uno ha più figli, magari 2 o 3 bambini compresi in quell'età, ecco, allora è un bel correre a cambiare lenzuola. Sì, certo. Allora, enuresi mi dicono che deriva dal greco. Io ho studiato al liceo scientifico, di greco non lo so, vado di fiducia. Enuresi vorrebbe dire urinare dentro, urinare dentro il letto. Può succedere durante la notte, durante il sonno notturno, ma anche già durante il pisolino del pomeriggio. È una situazione da considerare assolutamente normale fino a 5 anni. Noi dai nostri figli, dai nostri bambini esigiamo sempre il massimo, ma pretendere che siano asciutti prima dei 5 anni è veramente troppo, oserei dire. L'enuresi diventa invece una questione da gestire dai 5 anni, se anni compiuti. Ecco, questo sì. Ma fino a quell'età, un messaggio di assoluta tranquillità e normalità dei vostri figli. Ma dottoressa, quali sono le cause dell'incapacità del piccolo di riuscire a dire in tempo devo fare la pipì? Allora, gli studi sulle enuresi sono numerosissimi e una unica causa non esiste, è un concorso di cause. Moltissime volte, spesso sono cattive abitudini che il bambino ha durante il giorno e che stancano la vescica durante il lavoro diurno, quindi poi di notte, quando la vescica deve lavorare da sola, non ce la fa perché durante il giorno ha già dato troppo. Ecco. Poi troppo. I bambini con l'enuresi hanno una caratteristica, hanno tutti un sonno molto profondo. Quindi un'altra spiegazione dell'enuresi è che si tratta di riflessi della vescica ancora non ben maturi, non così spiccati da svegliare il bambino durante la notte, che dorme tranquillamente anche nel suo lago di pipì. E anche quando questa pipì diventa fredda, non continua importa, a dormire. Non sentono nulla. Comunque passa, è un fenomeno temporaneo nella maggior parte dei casi. Diamo tempo al nostro bambino, non lo facciamo sentire in colpa, non colpa. Assolutamente. Ecco, perché questo... Allora, assolutamente. Il primo messaggio da dare al bambino è che non è assolutamente colpa sua. È un comportamento sbagliato sgridare il bambino. Non è per niente responsabile di questa cosa, quindi non sgridarlo. Fargli capire anche, e io in visita questo è il primo punto che tocco, è fargli capire che sicuramente ha dei compagni a scuola che anche loro si bagnano la notte, non è l'unico. Sempre la prima cosa che gli dico è: quanti compagni hai? Di sicuro 2 o 3 di loro bagnano la pipì a letto, solo che non lo dicono, nessuno lo dice agli altri, è una cosa però, di cui i bambini si vergognano, però esistono. Nel frattempo, intanto diamo tempo al nostro bambino, ma nel frattempo che cosa si può fare e cosa non serve invece a nulla? Ad esempio, è utile svegliare, perché sui forum, sui siti, ci sono tantissimi consigli, alcuni mi sembrano addirittura crudeli, ma voglio sentire da lei. Ad esempio, svegliare il bambino a intervalli regolari, portarlo in bagno, può essere utile oppure non serve a nulla? Allora, questa è un'abitudine che hanno moltissimi genitori. Alcuni sono più comodi perché già hanno orari notturni diversi rispetto al bambino, oppure hanno turni di lavoro che li porta a svegliarsi presto al mattino. Già che sono svegli, portano il bambino in bagno. Quello che in realtà succede è che il bambino praticamente dorme e sì, svuota anche questa pipì, ma non è assolutamente cosciente della situazione, va in bagno praticamente dormiente. È un atteggiamento che non serve a nulla. Ci sono genitori che questa cosa invece la fanno proprio con spirito di sacrificio, perché con i figli si fa tutto per i nostri figli, sì. Puntano la sveglia alle 3 di notte pur di portarli in bagno. Non serve a nulla. La notte dormiamo. Allora, invece adesso stiamo ben svegli perché andiamo a sentire le informazioni sul traffico e poi ritorniamo di nuovo insieme. A tra poco. Cuore e denari. Siamo tornati insieme in questa puntata di Salute Uomo, un po' straordinaria perché l'abbiamo anticipata di un giorno. Ci stiamo occupando dei bambini. Ma il nostro campo d'azione si allargherà anche naturalmente agli adolescenti. Andrea Salogna naturalmente qui in studio con noi, pronto a guidarci, a rispondere alle vostre richieste, alle vostre telefonate, ma abbiamo chiesto anche l'aiuto della dottoressa Arianna Lesma per occuparci dei bambini piccoli. Spesso bagnano a letto durante la notte, è un fenomeno temporaneo, stiamo cercando di capire le cose da fare e da non fare, modificare la dieta. Dottoressa Lesma, può essere utile? Ci sono dei genitori che magari evitano di dare da bere al bambino prima di che si corichi, cercano di privilegiare alcuni alimenti alla sera ed evitare altri. Ci sono delle strategie? Ci dia due consigli mirati per i genitori all'ascolto con bambine che fanno ancora bambini in questo caso, ma anche bambine che fanno pipì a letto. Per quanto riguarda la dieta, i consigli sono fondamentalmente due. Sì. Alla sera, dopo cena, cercare di non far bere il bambino o quantomeno farlo bere il meno possibile. Spesso succede che i bambini a scuola non si idratano, non bevono, iniziano a bere solo quando tornano a casa dalle 4 in poi. Ecco, questo in realtà è un comportamento sbagliato perché i liquidi dovrebbero essere distribuiti più durante la giornata, fino a cena e poi dopo cena, una volta finito, nulla. Soprattutto dopo cena evitare il latte e i latticini. Tanti bambini hanno l'abitudine del latte appena prima di addormentarsi, un po' come una coccola. In realtà il latte causa una produzione di urina superiore rispetto all'acqua, quindi diciamo un bicchiere di latte è come se fossero 3 bicchieri d'acqua. I più grandi tante volte tornano dagli allenamenti sportivi tardi e sostituiscono la cena con un bel bicchierone di latte. Questo rema contro alla risoluzione dell'enuresi, certo, notturna, che è vero che è un disguido, chiamiamolo così, come ha detto lei, temporaneo. Il 14% dei bambini ogni anno guarisce spontaneamente, però non dobbiamo sederci sugli allori, perché questo disturbo dobbiamo invece aiutare il bambino a risolverlo, perché il bambino si colpevolizza e si sente a disagio, quindi ecco, è sbagliato dire tanto passerà. Dottoressa Lesma, poi avete sdoganato anche, cioè avete confutato anche una sorta di leggenda metropolitana che è quella che legava l'enuresi a dei problemi psicologici del bambino. Molti genitori infatti pensano che il bambino ritorni, e sottolineo ritorni, a bagnare il letto in concomitanza di emozioni o di situazioni emotivamente impegnative. Penso magari a un lutto, alla separazione dei genitori, o piacevoli come la nascita di un fratellino, ma ci vuole un po' di tempo per mandare, certo, giù il nuovo arrivato. Ecco, lei mi conferma che non c'è nulla di, non c'è nessuna relazione? Allora, questo è un vecchio refuso della conoscenza medica che è stato completamente smentito e lo dice la Società Europea della Continenza Pediatrica. Non sono i problemi psicologici, le difficoltà psicologiche, la nascita del fratellino, la separazione dei genitori che causano l'enuresi, è invece vero l'esatto contrario. Persistere nell'enuresi produce disturbi al bambino. Il bambino trova minata la propria autostima, deve rinunciare alla gita scolastica, non può andare a pigiama party, certo, non può frequentare la settimana di sport. Quindi queste rinunce lo fanno sentire inferiore agli altri, gli producono timidezza e negli estremi casi si può arrivare anche a una riduzione del rendimento scolastico. Allora, questo, abbiamo pensato di affrontare questo tema perché insieme a Deborah e ad Andrea crediamo che ci sia abbastanza un vuoto di informazioni. I genitori vanno educati per poi educare e anche accompagnare, Andrea, i bambini sin dalla tenera età ad occuparsi, no, della propria salute. Bisogna insegnare a lavare bene il pisellino, bisogna... È fondamentale. E poi accompagnarli in quell'età abbastanza, direi, complicata che è quella dell'adolescenza. Sì. Che gli adolescenti sono da maneggiare con cura, vietate le domande, soprattutto personali, no a tutto quello che dà loro l'impressione di essere considerati ancora piccoli. Figuriamoci se possiamo chiedere ad un adolescente notizie e informazioni sulla salute del Walter, no? Litizzetto insegna docet. Ecco, è verissimo. E qua è veramente è un problema serio. Perché... Ma la dottoressa Lesma, Nicoletta, se posso, ha veramente detto questo, cioè la tendenza ad autocolpevolizzarsi, perché l'area della genitalità, l'aspetto urologico, se vogliamo, nel maschio è sempre considerato tabù, e purtroppo lo è. Un termine pazzesco, filogeneticamente, cioè lo abbiamo fin da quando siamo in pancia alla mamma e da lì in avanti, e le condizioni socioculturali al corollario non fanno che aiutarci a mantenere questo stato di disagio. Nell'adolescente questo viene ad essere addirittura esacerbato. E voglio riportarvi un dato che viene dalla Società Italiana di Urologia, che circa la metà degli adolescenti ha almeno un problema andrologico. È una realtà molto preoccupante che può sfociare in infertilità maschile. Tra l'altro un problema che nelle ultime due decadi ha raggiunto valori preoccupanti. Sì. Se ne discuterà anche in un convegno che si terrà proprio in questo weekend. Andrea. È un convegno importante. Se posso fare una piccola correzione, è la Società Italiana di Andrologia. Andrologia, sì. Che è la società dell'uomo a tutto tondo, che durante le prossime giornate, il convegno inizierà sabato e si porterà fino a martedì, andrà a discutere questo tra tanti altri temi. La Società Italiana di Andrologia fa e pubblica i risultati di questa interessante indagine perché ha fatto dell'educazione e della conoscenza per il pubblico laico, ivi comprese le scolaresche, quindi maschi della fase adolescenziale, un punto di forza importante della propria comunicazione, del proprio impegno scientifico. Perché è vero che, banalmente, tra tutte le patologie che nell'epoca adolescenziale vengono riconosciute, ed è un po' a cavallo tra ciò che la dottoressa Lesma fa nella sua quotidianità, l'età pediatrica e quella adulta, riconoscere ad esempio patologie come il varicocele, che è prima causa, al di là di quelle che ancora non siamo in grado di spiegare, prima causa dei disordini della fertilità maschile. Se pensate che un uomo su quattro è sostanzialmente infertile o comunque ha delle alterazioni della qualità del liquido seminale per la presenza di un varicocele, che deve essere diagnosticato quanto prima possibile. Allora, tra l'altro, un programma di prevenzione potrebbe non solo contrastare l'infertilità, ma, Deborah, penso, ho letto, portare anche un risparmio di 76 milioni entro il 2025. Ogni tema ha la sua ricaduta economica inevitabile. Allora, noi vogliamo farci aiutare da un grande campione a mandare un messaggio di prevenzione. Saluto e ringrazio Francesco Acerbi per essere con noi. Ciao Francesco. Ciao a tutti. Buongiorno. Allora Francesco, buongiorno. Gli adolescenti sono da prendere per le molle. Andrea Salogni ha sottolineato come il tuo impegno sia assolutamente generoso ed efficace, perché arrivi là dove campagne non arrivano. Andrea, sei d'accordo? Sì, no? Io ho conosciuto personalmente in più occasioni Francesco e devo dire che ha questa capacità, al di là della persona, che è una persona splendida, e questo mi permetto di dirlo non essendo un amante del calcio in linea generale, però questo è un comunicato fondamentale, cioè andare a dare informazioni rispetto a questioni di salute da parte di chi come lui è capace di farlo. Allora, ci troviamo subito dopo il GR con Francesco Acerbi, Andrea Salogni, la dottoressa Lesma, Deborah ed io per continuare a fare prevenzione e poi per prepararci per la nostra scuola di risparmio. Tra poco. Ciao, sono Enrico Ruggeri. Tutti i giorni a Il Falco e il Gabbiano vi racconto storie di vite straordinarie che con un colpo d'ala hanno saputo cambiare il loro destino e quello di tante persone. Vi aspetto alle 15.30 tutti i giorni su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da... Cordialissima e Amissima, la nuova compagnia assicurativa con quasi 100 anni di storia. Quale sarà il futuro di Milano? E di Roma? E Torino? Napoli? Bologna? Fino al 29 maggio non perdere la programmazione speciale di Radio 24 per le elezioni amministrative. Reportaggi, interviste, inchieste e approfondimenti quotidiani dei nostri inviati per capire, confrontare, interrogarsi e scegliere chi guiderà le nostre città. Da Roma a Milano, passando per Torino, Bologna e Napoli, viaggia con noi verso le elezioni più discusse del 2016. Segui le amministrative di Radio 24. Dai valore al tuo voto. Cuore e denari. Il mondo ci spezza tutti quanti, ma solo alcuni diventano più forti là dove sono stati spezzati. Ernest Hemingway. Una frase che abbiamo tratto naturalmente dal capolavoro dell'autore americano di Alle Armi, ma che è stata postata qualche tempo fa sul profilo Twitter di Francesco Acerbi, difensore del Sassuolo, nostro allenatore della prevenzione per salute uomo. Francesco, eccoci a te, grazie. Ciao, allora, a voi. Francesco, io voglio leggerti un messaggio che ci vuole, che ci manda un ascoltatore, proprio per gli adolescenti, per cui sì. I ragazzi durante l'adolescenza sono come le saponette, se le stringi troppo sgusciano via, se le stringi poco ti cadono dalle mani, bisogna stringerle con il giusto equilibrio, i genitori sono proprio degli equilibristi e tu devi aiutare anche i genitori e naturalmente arrivare ai ragazzi, cosa che stai facendo, per dire occupatevi della vostra salute, perché ci sono dei nemici che attentano alla salute maschile, anche quando l'età, no, dovrebbe essere, no, quella della piena forma, perché non ci si pensa alla salute quando si è giovani, sani e forti. Francesco. Beh, quello è vero, perché quando si è giovani e stai bene è difficile pensare, pensi a, non so, alla ragazza o a giocare a calcio, pensa tutt'altro che alla salute. Se bene corri, vai e non pensi di avere nulla, però come ho fatto io sto giocando a calcio, ho molti controlli. E quindi se avessi fatto il giocatore non lo so se avrei fatto certi controlli, quindi sai, quando fai le visite e dopo ti trovano il tumore, dopo ti accorgi che fanno un controllo una volta ogni 6 mesi, una volta all'anno, ogni 6 mesi, non ti costa solo 10 minuti. Ecco, 10 minuti che ti salvano la vita, come l'hanno salvata, sì, come sì, l'hanno quindi, salvata Francesco. Quando non ce l'hai, ovvio, uno può, non viene in mente di fare un esame o niente. Ecco, quando dopo ti accorgi che ce l'hai, quando ti viene, dici, cavolo, perché non l'ho fatto prima? Perché non l'ho fatto prima? E poi va tutto bene, questo è anche il titolo del libro che tu hai scritto, sì, a quattro mani con Alberto Pucci. Sì, sì, poi ho avuto anche la fortuna, mi hanno trovato subito, ho fatto anche tutti gli altri, però se non avessi giocato a calcio sarebbe tornato e poteva anche, sicuramente andava meglio, andava sicuramente peggio, però... Quindi Francesco, quindi la prevenzione. Ecco, diventate campioni di prevenzione, puntate sulla vostra salute, vincete, no, quei timori, quelle ritrosie che sono tipiche di quest'età, di quando si è giovani e anche dell'essere maschi, questo lo dice Andrea Salogna. Francesco, grazie per essere grazie stato con Francesco. Noi, grazie, grazie per il voi. Lavoro che fai e ciao. Per l'impegno che ci metti. Sì. Io sono in chiusura, prima di andare a parlare della nostra scuola di risparmio, dove impareremo tantissime cose, ma vogliamo lasciare anche dei messaggi ai nostri ascoltatori da casa. Dottoressa Lesma, torniamo ai bambini piccoli. 2 raccomandazioni per i genitori, che i genitori di bambini in età scolare, diciamo così, perché poi gli adolescenti li affidiamo magari ad Andrea, devono sapere. Ci lasci con un compito. Allora, la prima è prendere l'abitudine di urinare spesso, anche se non si sente lo stimolo, anche se la pipì non scappa. Sono una buona abitudine a urinare almeno 6 volte al giorno, ma i bambini hanno bisogno di qualcosa che li cadenzi durante la loro giornata. Allora associare sempre la pipì prima di ogni pasto, la pipì prima di colazione, della merenda a scuola, del pranzo, della merenda del pomeriggio, della cena e prima di andare a letto. Anche se non scappa, si fa la pipì, ci si lava le mani e arriva il pasto. Prima regola. La seconda regola, l'igiene. L'igiene, tenere pulito questo pisellino. Molti bambini non lo toccano. Purtroppo tantissimi papà danno tutto per scontato, non insegnano ai bambini come lavarsi. Ecco, diamo le regole per favore. Tutti i giorni, in occasione della doccia, del bagno o quantomeno del bidet da eseguire mattina e sera, il pisellino va aperto e pulito dentro. Un bambino dei 5 anni è capace di aprire farlo, questo sì. Pisellino, basta solo dirglielo. Lo fa da solo, così si fa anche meno male. Apre fin dove riesce senza sforzare, seguito da un genitore. Deve diventare un'abitudine come lavarsi i denti. Grazie. Allora, Andrea, noi l'avevamo parlato, c'è stata una notizia che è stata ripresa da più giornali, è stata anche letta in modo diverso perché sì. Le battute sono facili. Parliamo del trapianto di pene. È stato un trapianto che è stato veramente un successo della chirurgia, successo. Della ricerca. È stato fatto su un uomo che era malato di tumore. Un intervento di questo tipo potrà essere naturalmente utile alle persone che si trovano, come scrivi tu nell'editoriale che io invito gli ascoltatori a leggere, che si trova nel momento sbagliato, nel posto sbagliato, sì. E quindi può subire un trauma. Oggi ci sono sostanzialmente due elementi da tenere in considerazione. Il primo, questo non è stato il primo trapianto di pene, è stato il primo terzo. Negli Stati Uniti e il terzo in tutto il mondo, ma è realmente espressione del successo della scienza e della ricerca, perché la difficoltà con la quale si può arrivare a trapiantare un pene, che è forse tra gli organi più complessi dal punto di vista funzionale che un uomo possa avere, è di per sé già un successo. Non bisogna fare facile ironia, per cui io ho scritto nell'editoriale di questo mese: evitiamo di fare facile ironia, evitiamo tanto, di riderne. Già fatta, sì, se ne è fatta molta. Tenete conto che i trapianti ad oggi sono stati dedicati non già ai novelli Bobbit, perché tutti questo se lo ricordano, certo. Quanto a uomini che hanno sofferto di un tumore al pene, che porta a emasculazione, che vuol dire a completa rimozione dei genitali esterni, che per un uomo rappresenta la perdita del sé, dell'aspetto virile di cui in tutte queste puntate abbiamo sempre parlato. Oppure in quegli uomini che sempre più spesso, purtroppo, saltano su bombe, vengono sottoposti al fuoco del nemico, e faccio riferimento ai soldati che non certo per scelta, il più delle volte, si trovano in condizioni di grave pericolosità e che a livello di danno spesso subiscono danni meno evidenti di perdere una gamba o perdere un braccio, che sono certo, oggetto della commozione di tutti, ma sono sostanzialmente emasculati, cioè perdono la loro genitalità. Quindi sono questi due gli ambiti in cui prevalentemente si andrà a proporre un trapianto di pene, che è un intervento complessissimo, dura un giorno quasi e implica una multidisciplinarità, e questo è l'altro aspetto affascinante della scienza, perché partecipano chirurghi che si occupano di andrologia, neurochirurghi, chirurghi vascolari, e poi al di dietro di tutto questo c'è comunque la percezione dell'uomo di avere qualcosa che appartiene a un altro. Quindi è un dono, è un po' diverso da ricevere un rene, un midollo, un pancreas, un cuore, perché stiamo parlando di un dono legato a qualcosa che è tra le più importanti dell'essenza stessa dell'essere maschio. Questo apre nuove frontiere anche per i bambini. Ci sono bambini che nascono con quella che si chiama la afallia, cioè l'assenza del pisellino, e ci sono sempre bambini vittime di mine di guerra che perdono i propri genitali. Quindi una soluzione anche futura avanti, per i bambini. È un passo avanti per la ricerca enorme. Ringraziamo Andrea Salogna e la dottoressa Lesma. Grazie. Se avete come sempre domande e commenti volete scriverci, cuoredenari@radio24, andate a leggere naturalmente l'editoriale di Andrea Salogna e tutte le ricerche, i risultati delle ricerche che gentilmente con la collaborazione di ricercatori del San Raffaele mettiamo a disposizione sulla pagina di Salute Uomo, che è una tra le più visitate, quindi vi ringraziamo anche per questa accoglienza. Grazie davvero. Grazie a presto. Voi. E noi cambiamo adesso radicalmente argomento, perché giovedì, e sapete qual è l'appuntamento che ci aspetta. Allora, qual è il preambolo necessario che dobbiamo fare anche oggi? Sono tempi complessi per i risparmiatori, non vogliamo infierire, ma insomma è un concetto che ci tocca ribadire spesso e volentieri. I mercati sono piuttosto nervosi. In Italia stiamo a guardare quasi solo ed esclusivamente a quello che succede alle banche, e ci mancherebbe pure, d'altronde, oltre che azionisti, in realtà siamo tutti clienti, quindi lo stato di salute delle banche